Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, torniamo a parlare di sharing economy, l'economia collaborativa basata sullo scambio e la condivisione di beni e servizi, l'economia che sostituisce il possesso con l'accesso e che sta diventando un vero e proprio strumento in grado di generare reddito integrativo, una valida strategia anticrisi per ciascuno di noi. I brand sono i nuovi editori, raccontavamo nella scorsa puntata, i prodotti sono i loro media da riempire di contenuti, la nuova conferma arriva da eBay che con la nuova iniziativa dedicata alla moda diventa magazine e community insieme. Lo sapete che il cibo gourmet viaggia sempre di più su quattro ruote? È lo street food, la formula retail del momento. Nel focus sui trend parliamo invece di forza della terra quando l'agricoltura fa tendenza. In chiusura, come sempre, la nostra riflessione sul Made in Italy con Italian Factor. L'elemento di attivazione di questa settimana è la coopetizione. La borsa della spesa. Allora, Louise di St. Louis, mi resta una sola domanda. Ok. Come può una ragazza disoccupata con tre coinquiline permettersi una patchwork denim bowlie di Louis Vuitton? L'ho affittata. Borsa, in prestito o rubarla? Ma come il noleggio dei DVD? Come posso non saperne niente? Era il 2008, il film tratto dalla serie TV cult Sex and the City cavalcava quello che allora era un fenomeno che si intravedeva appena all'orizzonte. Oggi invece affitto, scambio baratto, condivisione e tutte le nuove pratiche di consumo e di vita stanno sostituendo il possesso con l'accesso dei beni. Pratiche nate come risposta dal basso alla crisi, accelerate dalla rete e dalle dinamiche social, tutte insieme stanno costituendo un vero e proprio modello economico complementare a quello tradizionale, la sharing economy appunto. 3 miliardi e mezzo di dollari il reddito generato nel 2013 secondo la stima di Forbes, un settore in crescita del 25%, oggi sono moltissime le realtà anche in Italia che in chiave anticrisi permettono di risparmiare condividendo, affittando anziché comprando oppure addirittura guadagnando dall'affitto di beni, mettendosi in tasca un vero e proprio reddito integrativo, la propria casa da affittare per qualche weekend, trasferendosi magari da parenti o amici, le proprie creazioni artigianali da vendere sulle piattaforme online del do it yourself, un passaggio in auto da offrire ad altri che effettuano lo stesso percorso, oppure una cena a casa sfruttando le proprie abilità in cucina, il box da affittare di giorno mentre si è al lavoro, ma anche il trapano, il tagliaerba, l'attrezzatura sportiva, insomma le fonti di reddito per chi è attento ad individuarle sono veramente moltissime. Per parlare di tutto questo è venuta a trovarci Marta Mainieri di collaboriamo.org, prima piattaforma dei servizi collaborativi in Italia, la realtà di riferimento per la sharing economy nel nostro paese. Marta, buon pomeriggio, ben trovata. Buon pomeriggio, grazie a voi. Iniziamo a raccontare tutto questo dal punto di vista pratico. Ecco, come si fa a generare un reddito integrativo da queste realtà? Come fa chi lo sta già facendo? Citiamo i servizi, gli esempi appunto e le cifre anche che è possibile mettersi in tasca. L'esempio più semplice, quello che in questo momento va di più, è quello che si riesce a ricavare attraverso Airbnb, che è una piattaforma che mette direttamente in contatto le persone che hanno un posto, una casa o una stanza da mettere in condivisione e chi invece cerca una casa o una stanza per brevi periodi. Faccio un esempio di una persona che ho visto sulla piattaforma Airbnb, si chiama Paolo, lui ha una casa, un mini appartamento su una villa che affitta per 90 euro al giorno. 90 euro al giorno a Milano per più o meno 10-15 giorni al mese fanno una bella, fanno più o meno 1.000-1.500 euro che Paolo si mette tranquillamente in tasca ogni fine mese e che è un reddito complementare. Non solo lui, c'è un amico che usa BlaBlaCar tutti i weekend, tornando a Treviso prima spendeva più o meno 80 euro andata e ritorno, adesso ne spende 30, quindi risparmia 50 euro. E così gli esempi sono moltissimi, mi viene in mente anche due ragazzi che hanno messo un sito che si chiama My Eden Kitchen, organizzano cene a casa loro dove invitano più o meno 8 persone al giorno, fanno più o meno 4-5 serate ogni mese, anche loro, fate rapido conto, 1.200-1.300 euro che entrano direttamente questo in tasca, e questo è un reddito complementare, direi, molto interessante. Notizia di qualche giorno fa: negli Stati Uniti è nata Airbnb. Il nome fa volutamente il verso ad Airbnb, è un servizio che affitta il bagno di casa ai turisti in particolari situazioni di affollamento, di cortei. È stato sperimentato durante il carnevale a New Orleans. Ecco, che cosa ne pensi? Allora, penso da un lato che è molto utile, perché effettivamente è capitato a tutti di aver bisogno di un bagno quando viaggi e non c'è, però al di là dell'utilità è comunque, mi sembra quasi un po' uno scimmiottamento delle piattaforme in un certo senso più serie. Devo dire che a me ha fatto molto pensare questa piattaforma, e non ho ancora capito se è veramente una piattaforma che ha intenzione di funzionare o più invece uno scherzo. Certo è che in questo momento mi rendo conto che la sharing economy desta molto interesse, fa notizia, e bisogna effettivamente capire che cos'è, al di là della notizia, che c'è veramente dietro. Sono realtà che in molti casi hanno anche una ricaduta sociale. Sì, io direi che tutti i servizi di sharing economy, chi più chi meno, ha tre benefici, no? Uno economico, come si diceva prima, quindi da un lato si risparmia, dall'altro si guadagna. Uno ambientale, perché comunque quasi tutte le piattaforme tendono a invitare a produrre meno, quindi a riusare e ad accedere al servizio, al bene, piuttosto che a possederlo, e generano anche, come dicevi, un beneficio sociale. Questo significa che molto spesso, incontrandosi, perché le piattaforme mettono direttamente in contatto le persone, ovviamente si riesce anche a stabilire quel rapporto, quel capitale sociale che la società dei consumi ci aveva un po' fatto perdere. Reddito integrativo, dicevamo, come lo dichiaro? Il quadro normativo e fiscale di riferimento in Italia è chiaro? No, proprio no, nel senso che in realtà tutte le piattaforme ti dicono: tu vai dal tuo commercialista e fai segnare i redditi che ricavi dalle nostre piattaforme in altri redditi. Poi chi lo fa effettivamente, questo è più difficile da controllare, sebbene comunque le piattaforme sono tutte digitali, quindi la registrazione di quanto ti viene erogato è tutta online, quindi è facilmente controllabile. Quindi questo è il vero problema un po' della sharing economy, la vera sfida, no? Come normare, mettere in regola tutti questi servizi. Se è vero che Paolo guadagna 90 euro al giorno, se non le dichiara diventa una zona assolutamente grigia. È anche altrettanto vero che Paolo non ha delle certezze, nel senso che se una persona poi non se ne va, occupa la casa e decide che non vuole più andare via, Paolo non ha nessuna possibilità di mandarlo via, perché il servizio non è normato. Quali sviluppi prevedi per la sharing economy? A cosa può portare? Quello che continuo a dire è che la vera novità sta nel modello di servizio che offre. L'azienda non è più l'azienda che produce ed eroga servizi, ma l'azienda che abilita persone a mettersi direttamente in contatto con loro. E questo può essere un'azienda, ma può essere un'amministrazione. Io credo quindi che questo modello di servizio, modello di servizio peer-to-peer, apra tantissime opportunità per aziende, per amministrazioni e anche per privati, e credo che, spero anche, che si affiancherà in maniera complementare ai servizi tradizionali. Su collaboriamo.org lo ricordiamo, il quadro di tutti i servizi attualmente disponibili in Italia, andate a vederlo, andate a curiosare, perché sono veramente tante le realtà già operative in Italia. Marta Mainieri, grazie per essere stata con noi. Cambiamo argomento, parliamo dell'iniziativa di eBay che punta sul mondo fashion a partire dai contenuti. Con eBay Moda, nuova sezione dedicata ad abbigliamento e accessori, il portale di e-commerce diventa un po' magazine e un po' community. E dicono, le indiscrezioni scalda già i motori per fare la stessa cosa anche con i prodotti di design. Nasce l'era dell'inspired shopping, ci ha detto Claudio Raimondi, che è Head of Trading di eBay in Italia, Francia e Spagna. Se qualche anno fa eBay era principalmente un sito di aste online dove venivano venduti prodotti tra privati all'asta, Oggi eBay è qualcosa di fondamentalmente molto diverso. Oltre tre quarti di ciò che vendiamo sono prodotti nuovi, venduti a prezzo fisso da brand e venditori professionisti, e chiaramente le aspettative dei clienti sono cambiate moltissimo. Pensate che ci sono 4 milioni di persone che fanno acquisti su eBay ogni anno, e ci sono 4 milioni di home page disponibili per quelle persone. Quindi ogni page è dedicata ai loro interessi, personalizzata e in qualche modo volta ad ispirare quei consumi. eBay Moda è una sezione del nostro sito che presenta prodotti di moda che seguono le ultime tendenze, che permettono a quelle consumatrici e quei consumatori che hanno voglia di fare un acquisto, non sanno bene che cosa, di scoprire quali sono gli ultimi trend, scoprire gli ultimi prodotti e lasciarsi ispirare. Dal panino con l'astice al cibo bio, ci spostiamo su quattro ruote, la nuova formula vincente per il cibo gourmet. I casi simbolo arrivano dall'America e possono essere di ispirazione, in qualche caso lo sono già, per molte piccole o grandi realtà italiane. Codice a barre di Cristina Lazzati. È tempo di mercato e piace tanto agli americani che, dopo i bric-a-brac anni 90, i farmers del nuovo millennio, si sono innamorati del cibo di strada. E sono nate così delle vere e proprie icone su quattro ruote che vengono raggiunte da frotte di impiegati, avvocati o creativi, a seconda della zona in cui si posizionano, e offrendo cibi originali e freschi, del lobster roll, panino con l'astice, ai tacos, distribuiscono cibo in tutte, letteralmente, le salse. Negli ultimi anni la moda si è evoluta al punto che nel luogo del famoso Tavern on the Green, vecchia gloria della ristorazione nel cuore di Central Park e ormai definitivamente chiuso, oggi stazionano quasi una decina di camion per la ristorazione veloce. Lo stesso succede downtown, al termine della High Line, la passeggiata nata sulle ceneri della vecchia ferrovia. Al suo interrompersi all'altezza della trentesima si finisce dritti dritti in un altro covo di gastrocar. Infatti, la caratteristica di questi nuovi nati della frugalità è il loro essere, quasi tutti, gastronomicamente ineccepibile. Molti si muovono solo in ambiente bio, le patatine in sacchetto sono gourmet e le bibite alternano gusti esotici o lavorazioni artigianali. Ma non è tutto, il passo in avanti lo ha fatto il recente Gotham West Market. In questo caso si tratta di un mercato al chiuso che non nasce sulle ceneri di un vecchio mercato, ma è un concept totalmente nuovo fatto di locali che hanno aperto qui la loro insegna di ristorazione veloce. Così l'IVA Ramen Slurp Shop ha il suo gemello in Giappone, mentre Cannibal è la versione affettati e birra dello stellato Gramercy. 8 ristoranti, stile un po' anni 70, si mangia o si asporta. Nessun fraintendimento, è la nuova frontiera del piatto pronto, griffato, ma per tutte le tasche. Essere e avere. Un uomo solo è la sua porzione di terra. Ha vissuto qui, separato dal mondo, per più di 40 anni. Non ha il telefono, la luce, non usa il gas, non possiede l'automobile. E tuttavia non gli manca nulla per vivere. Quest'uomo ha vissuto la corruzione della nostra terra come un atto sacrilego e ha posto in salvo il suo piccolo mondo. Focus sui trend. Era Terra Madre, il film documentario con cui nel 2009 Ermanno Olmi rendeva omaggio alla cultura del cibo e della terra, denunciando le forzature del mercato. Un film che guida tutti noi consumatori alla consapevolezza verso la riscoperta di una vera e propria forza della terra. Questo è il tema del focus sui trend di questa settimana. Vogliamo parlare di come il messaggio della sostenibilità passi anche attraverso l'elemento concreto da toccare con mano, potremmo dire, la fisicità della terra. Dunque non solo cibo bio, orti urbani, la riscoperta del contesto agricolo in molti aspetti della nostra vita, persino in quello educativo, pensiamo ad esempio ad una realtà come gli agrinidi. Non solo questo, dunque, anche nuovi prodotti, nuove realtà, nuovi linguaggi e immaginari che si rifanno all'agricoltura, al nutrimento, alla cultura della terra e del cibo. Ne parliamo con Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Sabrina, ben ritrovata. Ciao e grazie Maria Luisa, un saluto a tutti. Da dove partiamo, Sabrina, per parlare di forza della terra? Da quale considerazione? Guarda, io partirei dal bellissimo riferimento che ci hai portato, quello di Terra Madre, dalla dimensione proprio più fisica, anche la dimensione alimentare, che insieme a quella ambientale è quella che è più direttamente coinvolta in questo processo di cambiamento, una tensione quindi ai macro temi della sostenibilità, dell'ecologia, che però nel tempo hanno stimolato anche altre dimensioni parallele, delle sensibilità direi, che vengono a nutrire dei progetti e anche un immaginario profondo legato alla terra, alla sua fisicità, proprio anche a elementi sensoriali, se vogliamo, che diventano anche narrativi, anche educativi. E quindi in questo caso la terra è in grado di diventare una forza ispiratrice notevole. Spesso è anche la superficie della terra, come dire, del globo, vista dall'alto. Lo possiamo riscontrare dalla moda, all'arte, all'attualità, dove vediamo come questo messaggio si stia radicando. Pensiamo al viaggio di Luca Parmitano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, 166 giorni a bordo, dove oltre a, come dire, a emozionarci per questo suo percorso come primo italiano nello spazio, ci ha coinvolto ancora di più con le sue immagini, i suoi racconti, quasi che la Terra vista dallo spazio potesse, come dire, essere un nuovo momento e contesto di emozione, ritrovarla e riviverla attraverso il suo racconto, le sue frasi emozionate. E sempre di terra vista dall'alto, delle sue linee così astratte e poetiche allo stesso tempo, l'abbiamo recentemente ritrovate per esempio in un tutt'altro contesto. Si parla del sfilate a Parigi, uomo per Louis Vuitton, dove le linee viste dall'alto di Nazca, queste linee magiche piuttosto che Machu Picchu, visioni satellitari comunque del pianeta, in questo caso legate a questi paesaggi, sono stati di ispirazione anche per tutto il contesto della sfilata, non solo la passerella, ma proprio tutto il contenitore che ha racchiuso le persone in questo viaggio. E parlando di disegni sulla terra, ispirandosi alla terra, trattando la terra quasi come una pelle, cito Andreas Amador, che a San Francisco disegna e, come dire, esegue quasi dei tatuaggi sulle spiagge, ma veramente delle tessiture di grande fascino. Anche l'attivismo mette le mani nella terra. Sì. Posso dirti, il mese scorso c'è stata un'iniziativa molto interessante promossa dal WWF, che di attivismo sicuramente ne sa qualcosa e ha una lunga storia alle spalle. Ecco, in questo caso in Paraguay, Asunción, che è risultata la città più calda del pianeta, hanno promosso con un'agenzia di comunicazione e pubblicità un'iniziativa per anche qua promuovere consapevolezza e discussione attorno al tema del riscaldamento. Quindi come fare per attirare le persone attorno a qualcosa di cruciale, ma in modo nuovo? Hanno coinvolto un importante cuoco e hanno deciso di cucinare un menù intero per un giorno sull'asfalto, con i gessetti bianchi, così come fanno i bambini quando giocano in strada. Hanno disegnato come un mega fornello e hanno cucinato delle uova, della carne, insomma un menù intero. Prodotti e iniziative, dicevamo, facciamo qualche nome. Potremmo citare una rivista americana, si chiama Modern Farmer, il contadino moderno, e sembra essere molto trendy, molto diffusa, una bellissima grafica che quindi unisce dei temi oggi, come dire, di grande interesse e condiviso, con un taglio sicuramente nuovo, innovativo, con una estetica accattivante, con uno sguardo a 360 gradi e anche un approccio multidisciplinare alle varie tematiche. Un'altra iniziativa interessante, fra le tante che costellano tutte le operazioni legate all'ambito agroalimentare, ma anche alla convivialità, nuova convivialità, sono quelle promosse dalla Cascina Cucagna a Milano, dagli aperitivi agricoli, dove gli agricoltori e produttori presentano e raccontano le proprie produzioni al mercato agricolo, piuttosto che laboratori di falegnameria. L'ultima realtà che vorrei segnalare è il progetto FICO, che è stato appena lanciato. Si tratta di Fabbrica Italiana Contadina, una cittadella, diciamo, del gusto e della cultura agroalimentare italiana. È un nome ideato da Oscar Farinetti, il patron di Italy, ed è un progetto progetto ideato dal CAB, che è il Centro Agroalimentare, con il Comune di Bologna. Sarà un grandissimo spazio, una struttura di riferimento per la divulgazione e la conoscenza dell'agroalimentare, con la ristorazione, la commercializzazione, il centro congressi, piuttosto che altri spazi espositivi. Quindi, come vedi, il cerchio si chiude, siamo partiti dalla terra madre, dall'agroalimentare, per passare dallo spazio, ritornare sulla terra e rialimentare di nuovo tutte quelle che sono le pratiche legate alla terra. Italian Factor. Diamo subito il benvenuto, ci ha raggiunto in studio Francesco Moraci, il nostro ospite fisso, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Continua il nostro viaggio alla ricerca dell'Italian Factor, virtù, fattori ed elementi per valorizzare, accelerare, comunicare il Made in Italy e le sue eccellenze. Francesco, oggi di cosa ci parli? Oggi parliamo di competizione, che è un termine nuovo, un po' messo insieme dell'unione della competizione ma anche della condivisione, perché oggi è fondamentale continuare ad avere la responsabilità nel competere, ma capire anche che lo si deve fare insieme ad altri e in alcuni casi collaborando con altri. Quindi è una cooperazione che è anche competizione, ed è una cosa che in Italia abbiamo sempre fatto in modo spontaneo, ad esempio nei distretti industriali, ma che non abbiamo mai saputo in qualche modo sistematizzare. Dobbiamo anche capire che condividere non significa liberi tutti senza alcuna responsabilità, significa mettere sul piatto ciascuno la propria capacità, il proprio talento, la propria maestria, per riprendere alcune delle parole che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti, per poi misurarci su un gioco che è un gioco in cui si condivide e si compete continuamente, alternando queste chiavi. Quindi un nuovo equilibrio. Un nuovo equilibrio, direi una nuova ecologia del fare, del produrre e del vendere, e questa è una cosa molto complessa su cui noi italiani abbiamo tanto da imparare. Grazie a Francesco Moraci e grazie a Filippo Aureggi in regia. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook o sulla pagina programmi di radio24.it. Troverete molti contributi aggiuntivi e la puntata da riascoltare e scaricare. A sabato prossimo, un saluto da Maria Luisa Pezzali.